mi aiutò a togliermi la giacca, mi scoccò un bacio sulla bocca. Io la stringevo fremendo sul mio cuor, quando ad un tratto mi disse traditor: che finimondo per un capello biondo che stava sul gilet. Sarà volato, ma com'è strano il fatto proprio su di me. Dissi: amore, ti giuro sul mio onore, non ti saprei tradire. Ma lei rispose: non credo a queste cose, perché tu sai mentir. Da un chimico il capello ha poi portato, e lui dopo averlo analizzato ha rilasciato un certificato in cui diceva di chiaro così: non è un capello, ma un crine di cavallo uscito dal paltò. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amor. Giuro sul mio onore, non ti saprei tradir. Ma lei rispose: non credo a queste cose, perché tu sai mentir. Da un chimico il capello ha poi portato, e lui dopo averlo analizzato ha rilasciato un certificato in cui diceva di chiaro così: non è un capello, ma un crine di cavallo uscito dal paltò. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amor. La gelosia.